Wolf Trips, i viaggi del lupo. E inizia una nuova puntata su Wolf Trips e oggi è il 16 marzo. Abbiamo al microfono io, Domenico Biancardi. Poi veramente? Sì, la Cri e la sua tosse. Poi, per adesso abbiamo Sara. Tosse raffreddore, questa è stata una settimana martoriata. Beh, quindi ci tira... Scusate per la voce, scusate se tossirò. Ci terrà compagnia la tosse anche. Ormai quando sono da sola in casa è la mia unica compagnia, quindi. E poi abbiamo Sara invece del blog Biomaterra, poi dopo arriverà anche Emanuele, giusto? Sì, ciao. Ok. Va bene, dai, intanto che aspettiamo anche gli altri desaparecidos. Strano che siano in ritardo. Arrivano sempre giustissimi. Oggi è il giorno delle stranezze. Sì, tra l'altro guarda, oggi invece stavo vedendo sai che guardo sempre un po' le ricorrenze della giornata. Oggi è la festa dei giovani, quindi è la nostra festa oggi. Ascolta. Ma oggi è anche la festa mondiale del sonno. Del sonno, però non c'è scritto su Wikipedia. Cazzo, questo non me l'hai detto. E questo non me l'hai detto. Cioè, no, poi, avrei fatto volentieri tutta la giornata a letto a dormire e tu non me l'hai detto. Poi però, oggi bisogna fare, diciamo, l'onomastico a tutti quelli che si chiamano Torrello da Poppi o Giovanni de Surdis oppure San Sabino. Ma che tu non ce la fai. O Sant'Ilario e Tiziana. Beh, insomma, sono i santi della giornata. Vabbè, dopo questa serie di santi Tiziana, guarda. Andiamo a ascoltare un po' di musica. La Tiziana, posso essere anch'io, che tazzo ogni tanto. Andiamo a ascoltare subito un po' di musica. Stasera ascolteremo un po' di brani Future Bass. Poi dopo vedremo un po' che cos'è e che cosa non è. Intanto aspettiamo anche Tony, che intanto è il mio supporto. Andiamo a ascoltare quindi. Vabbè, scusami, allora io me ne posso pure andare. No, il mio supporto musicale. Non sto dicendo per la cosa. Andiamo a ascoltare quindi Flume con You and Me. You ever dreamed? Wanna be who? You mean? Wanna be anything? Wanna be you and me? Wanna be anything you ever dreamed? Wanna be who? E niente, ci ha fatto lo scherzetto. Non so per quale motivo, devo dirti la verità. Strano. Vabbè, dai, può succedere. Vabbè, niente, questo qua era un brano di quelli già che volevo. Famoso, insomma. Sì, già famoso. Tra l'altro uno dei brani che volevo proporre come Future Bass o quello che è. Poi dopo comunque spieghi. È un po' cortino, però mi piace. No, ma secondo me, guarda, ti ha colto in fallo, dillo. No, ma c'è stato qualche, non ci siamo capiti col PC. C'è stato qualche problema col PC, devo dirti la verità, perché secondo me era un pochettino più lungo il brano, non era proprio così corto, dai, mettiamola così. Hai pure le incomprensioni con il PC. Sì. Vabbè, no, volevamo parlare. È grave, Prima di continuare con il prossimo pezzo, volevamo parlare un attimino con Sara, che sta propinando un po' tutti il suo bellissimo questionario. Giusto? Ah, sì. Allora, dai, spiegaci un po' che cos'è. Va bene, allora è un questionario sulla moda sostenibile. In realtà abbiamo bisogno di alcune, diciamo, risposte. Siamo arrivati alle risposte che avevamo già. Cioè, volevamo avere tipo una centinaia di risposte, ma ci hanno risposto in più. quindi vabbè, è meglio, no? Quindi ottimo, sì, esatto. Io in realtà non pensavo di arrivare tipo a 50, quindi vabbè, siamo arrivati più o meno a 200. Beh, ma di cosa tratta? Sì, allora praticamente è un questionario sulla moda sostenibile, quindi diciamo vengono poste un paio di domande su quanto si acquista, quanto spesso, cosa si acquista, un po' per avere, diciamo, una certa consapevolezza sul proprio acquisto, ma anche soprattutto sul materiale con la quale è fatto. Io intendo abbigliamento, non so, vestiti, borse, gonne, qualsiasi cosa che... Ma il fine di questo questionario qual è? Ci allora, sarà un motivo, no? Sì, esatto, perché abbiamo deciso, io e una nuova collaboratrice del blog, di portare nuovo materiale e quindi pensavamo di fare degli articoli appunto sulla moda sostenibile e quindi su i materiali che vengono utilizzati, quali sono, diciamo, quelli ecologici, quelli naturali e quali sono quelli sintetici, insomma informare un po' la gente su Ho capito. va bene e dove lo possono trovare quindi? Chi vorrà cercare un po' aiuto? Vabbè, andare avanti un po', darvi altri dati. O l'avete chiuso? No, in realtà non è chiuso perché pensiamo di chiuderlo entro fine mese. Ti ripeto, noi pensavamo di arrivare più o meno su un centinaio, però va benissimo, anzi, se ne abbiamo di più... Beh sì, certo, meglio. Sì, alla fine, sì, esatto, sono più risposte. Va bene. E quindi dove lo possiamo trovare? Si è messo a parlare. Sì. E lo potete trovare su Instagram, sul profilo di Bioma Terra, scrivendo vabbè Bioma Terra, okay. Oppure sulla pagina Facebook c'è il link. Ma poi alla fine metterai un articolo riassumendo qualche le informazioni che avete tirato fuori. Sì, dal... ma interessante, in realtà non allora, solo un articolo, cioè siccome... Le statistiche? Sì, esatto. In realtà volevamo fare molti più articoli, soprattutto... articoli che riguardano la moda. Ok, ho capito. Va bene, tu hai qualcosa da aggiungere? No, no, allora intanto io ho il questionario. Sì, veramente... sì, è abbastanza veloce. Sì, dai. Aspetta. No, perché? Perché io sono stata interrotta 200 volte quel giorno, quindi il mio è durato due... Ai. Il mio è durato... Mi è attaccato due... la tosse. Il mio è... No. Sì. Il mio è durato due ore. Perché? Eccale. Come, perché? Te l'ho detto poco fa. Perché ti continuano a disturbare. Va bene. Invece oggi abbiamo disturbatore la tosse, quindi vabbè. Lasciamo la parola alla musica. Continuiamo con... Questo è Alzheimer! Sì, infatti. Con DJ Zinc, con For My People. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my... Social down in a local. Don't answer your girlfriend's phone calls. That's what you're known for. Live by your own rules. Don't agree with the youths these days, and you make that vocal. Oh, so soulful, so full of. You're a face round here, and the whole place knows you. Geezer. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my... This one's for the new school ravers. Weekend spenders and midweek savers. Spent all their money on class A's and trainers. Out getting drunk on rum, Henny and Yeagers. New tunes on the Spotify playlist. Faded waves and getting off the faces. Face it, they're just a corrupt generation. Getting wasted, geezers. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my new school people. This one's for my old school people. This one's for my... Vabbè, dai, un po' tamarro. Ce l'ho voglia di me. Ce l'ho voglia di mettere un pezzo tamarro. Poco poco, eh. Vabbè, ce l'ho voglia, dai. Radio Lupo discoteca. Ma non sì, è che sì, dopo sì, torni a casa col braccio di fuori, la musica a palla. La musica magari a palla, sì, il braccio di fuori non penso proprio. No, perché quando io salgo sulla tua macchina c'è sempre la musica sparata a mille. Guarda, allora sto leggendo la scaletta che ha fatto un altro programma, che vabbè, in realtà è un programma di Radio Lupo molto, sono dei ragazzi molto bravi, è Lupi dei Caraibi si chiama, e il programma praticamente tratta di musica reggaeton, che piace molto a Tony, no? Perché Tony comunque ama questo genere qua. Ti leggo solo un titolo, giusto per dire che io sono tamarro, ma c'è chi mi supera, vai. Daddy Yankee, La Dura. Poi super abbiamo J Balvin, Bonita. Ah, okay. Quindi può andar bene il pezzo che ho messo io. Io ho passato i miei anni migliori con la gasolina. Sì, la gasolina. Io invece, invece con la benzina. Tu te la sei fumata proprio. No, io non ho mai fumato in vita mia, quindi no. Infatti si vedono i risultati. No, giustamente Sara prima stava dicendo una cosa che invece... Sì. No, allora è interessante, oddio, cioè non è che interessante, è una notizia, no? Che purtroppo è venuto a mancare Steve Aoki. Sì, che bella. Non è il cantante o perché tanti, cioè, no, perché guarda, è successo su internet un putiferio, no? Tipo, mi piacevano molto le sue canzoni. Veramente, oddio, questa ma cosa perché? Non, perché? Non la sapevo. Perché? No, in realtà, no, almeno l'unica cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che il giorno dopo la sua morte hanno fatto due volte praticamente la puntata di Big Bang Theory dove compare lui. Sì, non so se l'hai mai vista. No, allora io no, perché sono arrivata all'ultima della terza stagione, l'ultima puntata della terza, quindi non voglio spoilerarmi. Vabbè, ci sarà una puntata dove c'è lui. Sì, ho visto che avevano messo sulla pagina Facebook loro di Big Bang Theory la foto. Abbiamo intanto una morte in diretta. No, scherzo. No, non so se tu hai visto il film La Teoria del Tutto. Quello lì è La molto Teoria del Tutto? Sì, l'ho vista. Ha fatto tantissime cose, cioè tantissime, tra scoperte, poi comunque è sempre stato un personaggio. È sempre stato un personaggio, diciamo, che anche avendo i suoi problemi non ha mai avuto, non si è mai fatto fermare da nulla. Esatto. Poi tra l'altro era uno degli uomini più intelligenti, perché aveva veramente un quoziente intellettivo altissimo, ha sviluppato la teoria del Big Bang, dei È andata, ha avuto diciamo la sua rivincita nella vita, mettiamola sì, così. Esatto. Va bene. Intanto che vediamo di chiamare i soccorsi per uno dei nostri speaker, adesso mi sento tanto Demo Hospital stasera. E andiamo a ascoltare il brano di Unlike Pluto, che ogni tanto torna nella playlist di Wolf Trips, ogni tanto torna. E il brano con Lady B, con Cristina Gatti, che non è quella che sta, diciamo, espirando qua davanti a me. Andiamo a ascoltarlo quindi, Unlike Pluto con Lady B. And my guts and my bones ache, and I know together we fall apart. And nothing can live, nothing can thrive when you keep me in the dark. And you act so damn cold, boy, don't you know that you're the one with all the control? You've cut me now, prepare to watch me bleed. Let it bleed. Let it bleed, bleed, let it Survivor. Ce l'hai fatta. Quindi ti abbiamo riavuto in diretta, dai. Sì, sì. Perfetto. E stavamo parlando ancora fino alla prossima morte. Stavamo parlando con Sara del suo blog, giusto? No, vedi, ogni tanto. Questo sempre citato Biomaterra. Questo sempre citato Biomaterra. E no, dicevi dei disegni che hai fatto, no? Ci raccontavi, dicevi che... Scusami, non volevo dire dei disegni. Praticamente, devi sapere, ha cercato delle collaborazioni per il blog e quindi... Esatto, sì. Diciamo che si sta un po' allargando La famiglia Biomaterra si è allargata. Si è allargata, quindi sì. Avete due nuovi componenti, esatto, giusto? Esatto, adesso siamo in quattro. Vabbè, dai, più avanti, non dico, stiamo a prova. Più avanti fate un giro tutti quanti. Dai. Beh, no, ci sta come idea, sì sì. Tra l'altro adesso siamo tre... donne contro un maschio. Povero Emanuele. Sì, esatto. No, comunque le altre due ragazze parlano proprio di due cose completamente diverse. Una è Paola, di moda sostenibile, quindi abbiamo fatto assieme il questionario. Invece l'altra ragazza proprio parla di altre cose. Ad esempio di foto naturalistiche, viaggi, sempre comunque dal punto di vista scientifico. Ho capito, va bene. Tra l'altro mi dicevi che volevi fare anche dei video scientifici, non è andata avanti questa cosa o questa pazzia o no? Ci sono gli esami, lezioni, cose, perché l'idea è di farlo con Katia, mia sorella, nostra sorella. Tua sorella. Va bene, insomma, intanto sì. Tu sei ancora viva, no? Non sei più viva? Sì, sono viva un po'. Viva. Tanto aspettiamo sempre novità dal mondo, diciamo, di esterno, fuori. Visto che non si vede ancora nessuno all'orizzonte, adesso, però... Vai. Adesso infatti andrò a prendere vai una ricerca. Boccata di ossigeno e vedrò se arriva qualcuno, se veramente... Va bene, allora facciamo così. Ci hanno paccato. Mi hanno detto 10 minuti, però non mi hanno detto a partire da quando. Infatti. Allora facciamo così, se ascoltiamo un... Comunque strano. No, infatti non succede mai. Facciamo così, ascoltiamo un po' di pubblicità e poi ci sarà subito dopo Chemical Brother con Galvanize. Ogni lunedì su Radio Lupo Solitario va in onda B-Side, il nuovo programma condotto da Lello e Fabio con Victor Chris in regia. Potrete ascoltare la miglior musica dal mainstream all'underground e in più collegamenti con il mondo social, notizie e interviste. Ricordati, ogni lunedì dalle 21 su Radio Lupo Solitario. Ora! Yamamai, intimo e moda mare, prodotti realizzati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia ed in particolare per la donna attenta alle tendenze della moda. Yamamai, con una rete di oltre 500 punti vendita monomarca che coprono l'intero territorio nazionale. Scopri quello più vicino a te su www.yamamai.com. Amici, vi presento il Family Pub. Si trova in via Patriotti 7 a Inarzo, in provincia di Varese. Da martedì a domenica trovate ottimi panini, focacce e piadine, oppure piatti veloci. La pizza è veramente buona, tanto che si può avere anche a domicilio o da asporto. Fantastiche le birre Poretti con tutte le sue varietà di luppoli. Sala giochi e premium TV per seguire le partite della tua squadra del cuore. Area esterna e possibilità di prenotazioni sala per eventi privati e feste a tema. Tutti i weekend live music e DJ set con Radio Lupo Solitario. Family Pub, divertimento per tutti. Ci vediamo lì. È aperto il primo Original Amsterdam Cannabis Store in esclusiva a Gallarate. Prodotti alimentari, bibite, gadget, abbigliamento e souvenir. Tutti prodotti originali provenienti dalla mitica Amsterdam. Ci trovi in via Dominzoni 14 a Gallarate. Mi raccomando, cerca la nostra pagina su Facebook o visita il sito www.cannabisstoreamsterdam. Ah, non dimenticare, fly down. To move, so I make it harder. Don't hold back. lot of so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. Trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. E siamo tornati. Hai visto? Ho trovato il punto giusto. Ero lì che lo aspettavo. Sei galvanizzato. Sono galvanizzato. Questo qua è l'album che penso che preferisco in tutta la, di tutta la storia della musica in generale. Push the Button. Push the Button. L'ho ascoltato un centinaio di volte. 2000 e... Non mi ricordo. Buonasera. Ciao Tony. Ciao ciao. Che non hai fatto 50 anni. No, non io, ma una persona forse meglio di me. In tutti i sensi. Vabbè dai, Sabrina Salerno. Sì. Anche io ti, l'avevo conosciuta perché... Cioè, conosciuta. C'erano scritti su internet che gli avevo mandato il remix che avevo fatto. Gli è rimasta qui sul petto. Vabbè. No. Quindi... No, vogliamo sapere questa storia. Tu li hai scritto e... E lei gli ha mandato il remix e lei mi ha detto che gli piaceva il remix che ho fatto. Quindi ero contento di questa cosa qua. Lo sa bene anche... sua moglie. No, vabbè. No, scherziamo. Anche perché si parla veramente di tanto tempo fa. Quando ancora vecchie facevo storie. Vecchie storie. Che Latin Lover. Hai visto, visto. Ascolta, a proposito di Latin Lover, dopo ti esorto a leggere la scaletta di un programma che è stato qua ospite, cioè programma che ha fatto il programma mercoledì. Ti esorto a leggere la scaletta, però lo facciamo fuori onda, così poi mi dai le tue impressioni in onda. Ok. Invece adesso ti volevo parlare un po' del... Qualcuno di là deve sloggiare, vedo. No, ma perché, scusa? No, vabbè, adesso dopo ristabiliremo gli equilibri. Intanto salutiamo anche la Debora e Jonathan, giusto? Salutiamo la nostra cosa? Amica, la ragazza di Fabietto. Ciao Sabrina. Te l'avevo detto, ciao. Ti salutavamo. Che lei ci ascolta tutte le settimane. Perfetto, grande. Ciao. Cosa ti volevo dire? Questa sera ho proposto già un po' di brani Future Bass. Sai che ti avevo detto che adesso ogni puntata ascolteremo un po' qualche brano, diciamo, di un genere diverso, no? E ho scoperto che la Future Bass, secondo alcuni articoli, è considerata la nuova, il nuovo pop. Perché cioè, adesso non è, adesso è considerato il pop, il nuovo pop, diciamo. Questo il nuovo pop sarà questa musica. Perché dimmi, dimmi. Tony, sì, io dimmi. Ho una domanda. Dimmi, ma dimmi. Tu dovresti candidarti, perché non lo fai a RFI? Sei sempre in ritardo, cazzo. No, no. Stavano dicendo, no, che praticamente la Future Bass è il nuovo pop, perché mischia, diciamo, dei cantati pop con della musica elettronica. Quindi potrebbe essere. Cioè, tu dici che sono produttori che vanno alla ricerca di cantanti. Sì, pop, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Può essere, può essere. Beh, DJ Snake, per sì, dirti. Major Lazer, queste cose qua. Sì, sì, sì. Okay. Tu Sara qualcosa avevi già. Sì, dai, qualcosa l'hai già sentita. Non... No, non sapevo, cioè, non sapevo che cosa fosse questo genere, però no. Sì, vabbè, adesso prima, sì. Va bene, va bene. Andiamo ad ascoltarci quindi il brano di Casbo, che lo, non so se lo, l'hai già magari questo brano. No, non l'hai mai sentito come produttore, no, Casbo? No, no, no, no. Ma io l'ho già sentito questo brano, mi sa. Kaleidoscope. No, allora, penso che sia quello che intendi tu, penso che sia il brano un po' più vecchio. Questo è un po' più nuovo e è uscito l'anno scorso, quindi secondo me no, non l'hai sentito. Andiamo ad ascoltarlo, poi mi dici se l'hai sentito. Allora, a questo punto, no? Dopo sì. Proviamo. Andiamo ad ascoltare quindi Casbo con Kaleidoscope. Questo qua era il genere che ti dicevo. Non molto ti lento. Molto lento, no, però ci sono anche dei pezzi un po' più ritmati. Potrebbe dai. Essere anche una mezza tonica questo pezzo. Ecco, a proposito, quindi, visto che sei arrivato in ritardo, che sono le 8.40. Sì, detto da uno che lavora in ferrovia, mi sembra. Non diciamo fregnacce. E, quindi diciamo le 8.30 sono già passate, quindi ci possiamo presentare un pezzo della tua rubrica, vai. Vabbè, allora, dici tutto. Diamo il primo pezzo, che si chiama Supergirl. Lei è una cantante songwriter tedesca, si chiama Anna Nachlab. Sì, super Songwriter, la cantautrice, una songwriter. Ah, cantautrice. Vabbè, ma hai detto songwriter. Sì, poi hai detto super writer, poi songwriter. Sì, ma fare anche i graffiti in giro. Vabbè, lei è una cantautrice in tedesca. Ok. Che si chiama Anna Na Club. Questa è una cover di un gruppo punk tedesco. Ah, proprio una cosa leggera, quindi. Sì, però invece sì, però lei l'ha fatta in un'altra versione insieme a altri due DJ che sono Jalen Faber e sì. Unotus, che sono sempre tedeschi. Unotus, scusate. Va bene, quindi andiamo a ascoltare questo brano tedesco a questo punto, direi. Ha cantato in inglese. You can tell by the way she walks as she's my girl. You can tell by the way she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she said, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. Super girls don't cry. And then she say, it's alright, I got home late last night. Allora, è il momento dei miei saluti. Stasera ti vedono bene? Sì, sì, ecco, meno sì. Male, dai. I miei due amorini, Ale e Chicco, che li saluto tantissimo. Volevo chiedere ad Ale, che dopo mi risponde come per messaggio. Cioè, perché c'ha 3 anni, però usa già il telefono. Ti dico, sì. Se la mamma ti ha dato Gatto Boy, come al Chicco... Perché io oggi ho preso 2 Gatto Boy, uno l'ho dato a Ale, uno l'ho dato cosa a Chicco. Cosa sono i Gatto Boy? Non lo so. Non farti domande. Sono tipo i pigiamini lì, sì, i pigiamaschi. Sì. Ah, che carino. Sì, Gatto Boy, quello blu è Gatto Boy. E allora volevo io di Gatto Blu ne viene in mente un altro della mia infanzia. Cioè? Doraemon. Sì, Doraemon, giusto, giusto. È vero, è vero, è vero. Vero, comunque rinnovo i miei saluti. Ciao Ale, ciao Chicco. Adesso posso andare a dormire. La Crivi manda un bacione. Posso andare a dormire adesso. Ecco. Intanto invece salutiamo Emanuele che è arrivato. Ciao a tutti. Ciao Emanuele. E no, è da un po' che non ci vediamo, no? Sì, due settimane. Sì. Voi siete sempre impegnati con gli esami, giusto? Ma immagino sia per lui quello. Non più. Ah, ho capito, capito. Vabbè, comunque sarà impegnato in qualcosa, immagino. Non penso, sì, che... sì, sì. Non penso che sia a casa a far niente, no? E questa sera di cosa ci volete parlare all'interno del, diciamo, del mondo biomaterra? Se c'è qualche informazione carina, qualcosa. Ne parliamo anche dopo, però giusto per sapere... Beh, proseguiamo un po' il discorso sui lupi. E visto che Sara l'altra volta aveva accennato un articolo che era uscito su National Geographic sulle popolazioni del lupo in Italia, avevamo portato qualche informazione su questo. Va bene, va bene. Io direi che ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, così intanto lui si prepara. Il prossimo brano è uno dei miei gruppi preferiti, i Cromeo. Ah no, ma non ho visto il titolo, mi sembrava una roba, un gruppo italiano. Sì, sembra una, no, non italiano. Sono i Teneroni, ma il brano si chiama Tenderoni, Tenderoni. Non è Teneroni. I Teneroni, c'erano anche qualcosa che si mangiava dei Teneroni. Sì, giusto? Sì, sì, sì, sì, sì. Erano mica quelli rosa, quelli piccoli di bimbi. Tipo di prosciutto. Sì, sì, sì. Però questo qua è Tenderoni. Questo qua era Tenderoni. Non teneroni, eh. Tenderoni. Tenderoni, tenderoni. Vabbè, io preferisco comunque i teneroni. No, no, a me questo gruppo no, qua piace. No, visto che stasera non ho mangiato, sai, comincia a arrivare. Che novità. Che non... Ma noi abbiamo il venerdì sabbatico. Sì, ma qua io lancio annunci, anzi... 338-222-8983 per portarmi qualcosa da mangiare, chiamate, io vi do l'indirizzo della radio. Che è? Chiama Just Eat a questo punto. Lasciamo l'ello. Non mi ci sta l'app sul telefono. Ah, ho capito. Spazio esaurito della memoria. Quante applicazioni c'ha la ragazza? Non lo so, c'ha l'applicazione finita. Cioè, scusami, la memoria finita. Sai che c'è la storia infinita e lei invece c'ha la memoria finita. Vabbè, riprendiamo invece il discorso di prima, un pochettino più serio. L'hai presa la sigla? No, non l'ho presa. Questa sigla che arriva. Vabbè, ma adesso siamo a Radio Lupo, magari, visto che dovete parlare di lupi, c'è uno stacchetto con... Potrebbe essere. Il problema è che cioè, va bene essere veloci nelle ricerche delle cose, però dai, insomma, non è che uno può essere proprio così veloce. C'ho questo, boh, vediamo. No, non è niente. Ho sbagliato tutto. Vabbè, niente, stavamo parlando quindi di... Mi dicevi di un articolo di National Geographic, giusto? Sì, esatto. L'articolo che è uscito nel National Geographic di febbraio. Quindi vabbè, siamo un po'... Vabbè, un mese, dai, che cavolo. Neanche due settimane. Però, no, esatto. No, è molto bello perché ci sono delle foto anche molto belle di Bruno di Amici. Insomma, ti piace, perché è molto bello che ci sono delle foto molto belle e ci sono scritte anche delle cose molto, molto belle. Molto belle, sì. Tanto abbiamo la... assistiamo sempre alla morte in diretta. Vai avanti pure. Vabbè, l'articolo parte con l'affrontare tutto lo studio della popolazione di lupi in Italia, che studi che sono partiti con Luigi Boitani, che per conto del WWF si sono resi conto che la popolazione del lupo era, cioè, proprio risicata, tipo un centinaio di individui. Poi nell'arco di 40 anni invece c'è stato un boom della popolazione, quasi 2000 individui, però non accertati con sicurezza perché il lupo è un animale molto elusivo, quindi hanno delle difficoltà nell'individuarli tutti quanti con precisione. E trovavano anche delle motivazioni, delle cause per questo boom demografico. Tra cui, appunto, vabbè, il fatto che il lupo è diventato una specie protetta, quindi non è più cacciabile, anche se ci sono dei fenomeni di bracconaggio. Beh, quelli sempre, di qualsiasi specie animale. Poi, piano piano, è cambiato anche il rapporto tra l'uomo e il lupo all'interno della cultura. E grande impatto, invece, è l'abbandono delle zone rurali, quindi la campagna, i campi coltivati, a favore, invece, del rinforestamento e zone più selvatiche. E quindi hanno portato una maggiore popolazione anche di ungulati, quindi cervi, camosci, così, che sono comunque delle prede principali per il lupo, insieme al cinghiale, che anche adesso il cinghiale sta esplodendo un sacco. E va in giro anche per Roma. Sì. Ah, guarda che c'è anche qui. C'era. Non andare troppo lontano, vai alla Maddalena e te lo trovi. Sì, c'era. No, vai a Gallarate e te lo trovi. Anche. No, beh. Va bene. No, volevo ricordare una cosa. L'altra volta lui aveva parlato sempre, diciamo, del lupo e quindi la gerarchia che c'era. E, dato che ci sono state le elezioni, Emanuele ha scritto un articolo molto molto interessante, molto bello. Ok. Su praticamente la gerarchia, sì, esatto. Non solo all'interno del lupo, dico l'articolo che sì, hai fatto. No, beh, poi l'articolo parla anche di altri animali. Sì, esatto, se volete andarlo a leggere vi ricordo sempre il sito biomaterra.wordpress.com e l'ultimo articolo, perché... Perfetto. Dopo magari gli andiamo a dare un occhio al sito, dai. Beh, comunque sono sempre interessanti questi aneddoti sul lupo. C'è qualcuno che è in via di estinzione. Sì, e non è il lupo oggi. Intanto vediamo se si riuscirà a riprendere, va. Lanciamo il prossimo brano. È finito, Tony? Basta! Però è vero, stasera guarda che... Diciamo che c'è sempre uno speaker in più stasera, allora, che è la metto tosse. Allora io lì sul divanetto. Ecco. No, devi trattenere il fiato. Sì, vabbè. Devi parlare trattenendo il fiato. Dai, facciamo la gara. Va bene. Io dopo un minuto sono fuori. Andiamo a ascoltare il prossimo brano di Fish Spooner, Wednesday, giusto? Wednesday. Io non riesco a dirlo. Wednesday. Bentornati su Radio Lupo Solitario. Che ore sono? 20:56. Ah, sono quasi le 9, quindi si avvicina quasi all'altro pezzo. Alle 9 dovete dire sono le 9. Sì, lo segnale orario. Ho messo facciamo pure il contrario alle cuffie. Eh beh, se sono le 9 mica diciamo che sono le 10. Sì, infatti, cioè, sono le 9. Di solito allora, cioè, ci sono delle, vabbè, alcuni che dicono proprio l'ora in come radio. Si chiama tecnicamente l'ora esatta, ve la ricordate? Si chiama segnale orario. Segnale orario. E anche il traffico. Sì, poi vabbè, il traffico allora per venire qua dalla, io da casa. Sì, Tony ha trovato traffico, però secondo me sì, adesso sì, no, ma Tony, dimmi. Ti fai morire. Io non ti riuscirei. Io non ti riuscirei a seguire in macchina. Perché? Io sono tranquillo. Sì, ma io dopo 2 secondi sclero. Cioè. Sei già invecchiata. Cioè, veramente. Ora che arrivi da un posto all'altro, immagina se questo si deve fare viaggi lunghi. A che ora arriva? Hai detto che devi andare in Ibiza. A Ibiza quest'anno in con macchina. Macchina non credo. Però. Se no, altro che ferrovie. Ha già comprato i remi. Beh no, a nuoto vai, no? Quindi. Non so nuotare. Ah, cavolo, cosa vai a fare Ibiza? Vabbè, dai, eccetera, uno va a nuotare Ibiza. Uno va in vacanza anche solo per rilassarsi. Sì, sì, diciamo. Allora, che giustamente come suggerisce Jonathan, vai in aereo. Infatti. Non mi sembri tipo da discoteca Ibiza, sai? Io no, so. No. Ah, assolutamente no. Io proprio non so manco cos'è una discoteca. E Tony. No, a me piacciono le discoteche. Vedi? Okay. Già l'altra volta. No, no, io veramente credevo di no. Ah, pensavo che era un panchettaro di qui. Anche, anche, io poco. Okay, cioè, okay. Pogavo. Perché ormai... con le briciole. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? No, no. Ce l'hai fatta. Un altro contagioso. È contagioso stasera. Io direi che se ascoltiamo il prossimo brano e ci riprendiamo un attimino. E almeno ci tocchiamo, io mi devo riprendere. Gioielli che qua sembra uno, come dire. Perché uno piangi, Domenico? Sono commosso. È la vicinanza di Toy. Sì, occhio, sì. Occhio, perché Radio Lupo commuove. Andiamo a ascoltare Black Wave con Swanging. No, fa Swang proprio Wave piangere. Who got the keys to this Bimmer? Bimmer? What up? Nigga, ain't nobody got a Bimmer. Got a Bimmer, tell Zimmer, come and get you, hit you. Trust me, ain't no need to worry. Imagination from the dome, made me get it. Just hit it and feel it. See, now we got a whip. I'm like a tank, got a tank fully filled. You with the residue that got you going. Zero to 100, nigga, real quick, real shit. Oh man, I swear, even got the rims up with the signs like a bim. And if I come to think of it, I even had a mistress. But when I had a drink that I drank while I sang with the boys, right behind us in the Royce, steady standing to the joint, ay, ay. Got you drifting in your lane, come to with the crew, you better stay out the way. Cause I heard this the way around town, that J me killing goofy niggas really quick right now. Ego tripping in the mission, my decision on this mission, I'ma sin. Asking if I do it again, I love it from the start to the end. Till I got it all figured out, it in a mouth. Just gotta make it drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Swangin', tweaking in the whip, swangin', cheat you with the trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Swangin', tweaking in the whip, swangin', cheat you with the trick. Just gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my thing, thing. Gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my thing. Hold up. Labels pushing us like white. Call it dope music. They be asking us why. Cause we on that whole new shit. I'm not a dealer, but I move units. On the run, I ain't got a gun, but I shoot movies. Just for fun. Yo, we be bumping this shit in the wheel. Motherfucker, we be cruising. Y'all might be deaf, man, if you don't think it's a deaf jam. Rick Rubin, solving the game like I'm Rubik. Reinvented like a cubist. I feel like Pablo, like a pyro. We ain't coolin' now. Up in space like I'm Kubrick. Overseas like Odyssey, it's ludicrous how we move, bitch. Get out the way, swore so hard, now we swinging in space. Get out the way. Work so hard, now we swangin' in space. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click. Sip, sip, sip, sip. Swangin', tweakin' in the whip. Swangin', cheat you with the trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click. Sip, sip, sip, sip. Swangin', tweakin' in the whip. Swangin', cheat you with the trick. Just gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my thing, thing. Gotta let me do my thing. E intanto abbiamo la svolta Nigga. Scusa Tony, scusa. Dimmi. Quando è che ti stavo prendendo in giro? Non lo so. Mi sono girato e vabbè, per il culo non mi permetterei mai, no! Cioè Debora. Che cosa? Cioè... Ho massimo rispetto per lei, guarda. Sì, meno male. T'hai visto, t'hai visto. Come stavo dicendo, ogni tanto c'è la svolta Nigga in questo programma. No. Vabbè, anche un periodo, anche perché al cinema c'è Black Panthers che sta spaccando. Ah sì, è vero, è vero. E tra l'altro che le mani qualche volta. Dimmi, Cristina, non c'ha. Tra l'altro stavo guardando un po' i trailer nuovi di nuovi pezzi, nuove tracce. Non c'è molta roba. Cioè praticamente abbiamo Avengers con Infinity Bastardi. War. Ma poi altri film interessanti. No, non c'è molto, devo dirti la verità, No, che tu sappia, no. Allora ci sono. Non so se c'è ancora quello di Guglielmo del Toro che ha vinto La forma dell'acqua. Ah, sì. Giro. E forse magari c'è ancora Il filo nascosto. Quello lì avevo visto il trailer qualche. Però... Che ansia, però. Ma in realtà parla di una storia d'amore. Cioè, no, che ansia. Realtà, guarda, non me lo ricordo. Vabbè, ma il film più. No, quello di Guglielmo del Toro sembra molto. Ma il film più allegri, più movimentati. Tomb Raider. Ah, giusto. Ready Play One, quello là di fantascienza. Appunto, poi. Shy Avengers, Black Panthers, queste cose qua. Sì, sì. A novembre esce il secondo di Harry Potter, quello di Animali Fantastici. Hai visto? È uscito guarda... ieri il trailer, no, due giorni fa. L'età media è 12 anni. Harry Potter, no, ma mai, guarda, no, c'è cioè no, una cosa. No, due palle. No, a me piace, devo dire la verità. Il problema di Harry Potter, sai cos'è? Che magari 12 anni, cioè, 12 andavano i 12 fa. Anni 12 anni fa. Esatto. Adesso, è vero. Adesso vanno gente che ormai anche 24, dai 25, secondo me. Io martedì anni. Ho visto Donnie della Morte 2, che c'era in Italia. Hai visto? Ci hanno fatto la maratona. No, io un po' come quella di Mentana, mettiamola così. Quello è un alieno. Ho letto i libri, ma hai letto i libri? Sì, i primi due forse. Ma sono seguono abbastanza il libro, il film? No, io i film ne ho visto uno che è il primo. Però dopo no, non ce l'ho più fatta, no, a leggere il colpo. La storia è più o meno quella, sì. Sì, sì, beh. Io ti parlo dei primi libri, cioè sì, ho letto due libri e ho visto un film, cioè va bene. È che quindi stasera mi sembra tutti dei grandi istruttori, dei grandi professori. Il boccino d'oro. Questo perché? C'è il boccino d'oro qui. Il boccino d'oro, vedi, ti ho detto che sembrano tutti dei grandi professori, dei professoroni. Sì, ma guarda, oggi guarda l'accademico dove si va da agganciare. Era perché volevo volevo presentare il prossimo brano dei Daft Punk, in realtà, che è Teachers. Che è uscito nel loro album. Ma di dove sono loro? Daft Punk francesi. Francesi. Sono dei fuori classe, direi. È pronto, Domenico. Jimmy, non è che mi tieni. Daft Punk con Teachers, che ti dicevo, era uscito nell'album Homework. Homework 2001. No, 96. No. Dopo cerchiamo, ragazzi. Chi avrà ragione? Vado a vedere. Forse mi confondo con Discovery. Ai. Andiamo ad ascoltare Daft Punk con Teacher e dopo scopriremo la soluzione al nostro mistero. È vero. DJ Rush, Wax Master, Hyperactive, Jammin' Gerald, Brian Wilson, George Clinton, Lil Lewis, Ashley Beadle, Liam Lenstrom, Kenny Doe, DJ Hell, Louis Vega, Ken Alexi, Dr. Dre. Stavo solo annusandomi i capelli. Beh, il TSO, aspetta che lo chiamo. Sì, siamo no, TSO, è scattata che... allora, è scattata allora. Allora sono le 9, dai, 7:20. Sono le 9:07. Allora, dopo quest'ora incomincia il degenero. No, dai, stasera aspettiamo un altro po', dai. Aspettiamo. No, anche perché stavo aspettando per concludere l'angolo, diciamo, biomaterra, qualche altra informazione. Sì, infatti. Allora, volevamo sapere qualche anticipazione del vostro blog, qualche... Allora, come anticipazioni, io non so se, Domenico, non so se tu ti ricordi, ma io avevo fatto un articolo sull'Etna, dato che ero stata. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Ci sarà, diciamo, un sequel di questo articolo. Ah, pure il sequel non dell'articolo. Non l'ho mai finito. Sì, perché allora praticamente avevo fatto un articolo tipo di 1200 parole. Ok. Capisci che pubblicare una cosa così nessuno l'avrebbe mai letta. Allora ho deciso, vabbè, divido le due cose, no? E allora niente, ho diviso le due cose, ma poi alla fine la seconda parte non l'ho mai pubblicata. Che tra l'altro tu hai fatto anche un video, giusto? Della... sì, però... boh. Vabbè, non è che era uscito malissimo. Perché non dici so, però boh? Non lo so, beh, se te lo dice tuo fratello tanto. Che è un... ormai super con videomaker. Ormai con i video, guarda... Sono, pensavo... Tutorial base numero 2 sono arrivato. Pensavo il numero 1 in italiano. Sì. In italiano, con la italiana. Sì, no, prima o poi mi rimetterò anche da quella parte, da quel lato. Da quel lato? Dal lato oscuro, dal lato oscuro dei video ti metto. No, da quel lato, dato che cioè, mi sono messa anche a fare i disegni, insomma, un po' tanta carne al fuoco. Ma comunque, tu, io volevo salutare anche Deborah che è arrivata. Esatto. Dai, già da un po', non è che... No, è arrivata ai microfoni. Ah, ai microfoni, No, ma io volevo dire una cosa. Allora... 96 o 2001? Giusto, è vero. L'album 97. Avete cannato tutte e due, 97. Però devo dirti una cosa, allora, la prima risposta era quella giusta. Quindi, cioè, la prima risposta è quella valida, non quella giusta. E poi, se facciamo il gioco, tipo, sentite quei giochi lì quando c'erano, che so, il peso giusto... Che vinceva quello che si avvicinava di più, quindi mi quelli spiace, con i salami. Quelli con i salami, bravo. Quindi, allora, per vince portare un salame, vediamo se... sì, tu lascia che ci portino i salami qua, dai, ti devo spiegare che ce l'avete tutto. Già in casa, 338-222-8983, vi daremo l'indirizzo. Eppure calabrese. E noi faremo la prova del peso. Cioè, nel senso, lo mangiamo e ci pesiamo prima e ci pesiamo dopo. Canzone. Speravo di iniziare dopo il degenero, ma in realtà è iniziato subito. Andiamo ad ascoltare allora Jack Banks con Louis the Child, che l'avevamo già ascoltato entrambi. Sì. Con il brano Diddy Pop. Diddy Bop. Smoke won't make you feel at home. Yesterdays are made for letting go. Silver will never feel like gold. Chasing shadows will leave you in the cold. Oh, you should dance some more. Clouds could choose a company. confidenze tra donne. No, diciamo che con questo brano abbiamo fatto il, diciamo, il, come si dice, il giro di boa. Non il giro di boa a livello di tempo, ma a livello di musica. Perché con questo brano qua ci siamo un po' rilassati. Siamo e questo è molto... Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Poi hai fatto il giro con la boa vera. Sì, poi io installo anche le boe al lavoro, quindi è tutto un insieme. Vabbè, e dopo questa... ripeto che inizia il degenero. Mi picchiata. Per uscire da questo impasse, ti hai visto che paroloni. Sì, vabbè, lanciamo... non fare il figo, che tanto la parola dopo la canni, quindi... No, facciamo il secondo brano perché della... Perché l'ha già letta. Bella questa. Di dove sono? Ma chi? Questi sono tutti e due di Los Angeles. Sia sicuro? Jacob Banks, che avevamo ascoltato un brano l'anno scorso, forse, non so se ti ricordi. A te piaceva anche, Sara. E sì, Louis the Child, che poi ha anche il cognome di una cantante, Banks, no? Sì, sì. Quell'altra che hai suonato qualche volta, mi sembra. Sì, sì, sì, sì. E niente, stavo dicendo, è giunta l'ora di ascoltare un altro brano estratto dalla rubrica di Tony. 9:15, vabbè, sì. Vabbè, sì. Dai, non è che sia le fiscali. Ah, allora ci sono anch'io, Tony. Ciao, dici. Perché dovevi... Cioè, perché... No, ma è che sono in soggezione. No, ma tanto lui lo sa che io sono la sua disturbatrice della mezza tonica, quindi... Ma gli sei mancata. Sì? Potevi chiamarmi da fuori. Vabbè. Vai, Tony. Vado come un... Spedito. Vai. Quindi, allora, della mezza tonica cosa parliamo stasera? Di quello che è rimasto, il ghiaccio... No. Ah, dove abbiamo cambiato posto? Non siamo più al tramonto, al mare, siamo sul ghiaccio? No, perché la mezzatonica c'è Jack il Rose. Drinks, te lo sei bevuto e quindi è rimasto solo il ghiaccio. Dai. Ma sei bevuto il cervello lei, eh? Sì, sì. Jack e Rose. Vabbè. Vai. No, non ce l'ho a te, dai, dov'è? Vabbè, allora ascolta, no, sono così. Vogliamo sapere la storia, Tony. Allora, la storia. No, ma adesso voglio vedere come va avanti. Dai, infatti, vediamo un po' come va avanti. Cosa? Ecco, vedi? Lancia il pezzo. Ah, io? Dai, poi racconto. Ma io non ci vedo, aspetta. Questo qua? Intanto c'è il silenzio più totale. Wake me up. Sì. Reggae mix. Sì. ABC. Meno male, va, almeno quello sei riuscito a farlo, va. Guided by a beating heart, c'è nessuno, ecco, c'è stato l'ammutinamento. Va bene, ammutinamento. Quindi stavo dicendo invece di questo brano qua di Avicii, Wake Me Up Reggae Remix. Sì, la dove, versione... dove l'hai beccato? È una versione ufficiale, un'altra versione del pezzo che aveva fatto 3-4 anni fa. Poi vabbè, si era preso una bella pausa perché il ragazzo, diciamo, abusava un po' di tutto, di alcol, queste cose qua. Ma chi è Avicii? Dici? Avicii, sì. Ah, ma perché l'ha fatto lui quindi il remix? Credo che è proprio suo originale. Sì, sì, sì, sì. Ha fatto tutto lui perché, beh, è bravo, eh? Sì, e... sì, sì, sì, ci sta, ci sta. A te non è piaciuta molto, Sara? No, allora, a me è piaciuta, però preferisco quella originale perché mi sembra più veloce. Cioè, è più veloce. No, non è così tanto veloce. Magari essendo dopo... il reggae remix, sì, ci può stare. Sì, che questa è lenta, sì, ma la versione originale penso che più o meno siamo... No, no, è un pochettino più veloce. Sì, è un pochettino più veloce di questa, sì, sicuro. Però c'è anche la speed... Scendo. La speed mix, poi la, qualche volta la faremo sentire. Come direbbe qualcuno, mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Sì, lo fa uguale, Devon, eh? Mi manca solo la barba e i capelli. La chiameremo la borghese. Il prossimo brano invece è stato estratto dal distributore qua vicino. No, scherzo. È un brano di Subsonica. È un brano che ha una storia un po' particolare. Che praticamente sai che lui hanno dei momenti. Se loro sono comunque scrittori dei propri pezzi, sì. Hanno avuto un momento un po' down. Sì, un po' calante. Un po' così. E non, cioè, diciamo che per riprendersi gli era stato proposto di pubblicare un brano su Repubblica XL. Cioè, ah, sì, sì, cioè sì, come sì, era un giornale che usciva all'epoca. Al venerdì. E si potevano allegare. Cioè, intanto c'era magari l'inserto aggiuntivo. E gli avevano proposto di fare un brano, dato che erano un po' fermi, era un periodo un po' buio, di fare un brano da mettere su questo Repubblica XL, e proprio loro avevano proposto questo brano Benzina Ogoshi. E non so se sai cosa vuol dire? No, non ha un senso. Benzina Ogoshi non ha un senso. Il senso è proprio nella canzone che si fa mille domande, però non è collegata al titolo. Adesso magari ascoltandolo andremo un po' a capire meglio. Quindi ascoltare Subsonica con Benzina Ogoshi. Non sei riuscita a un po' più roccheggiante del solito. Sì, ci siamo svegliati dopo il mio pezzo. Sì, vabbè, vabbè, ci voleva un po' di carica, dai. Sì. E il brano era, tra l'altro, ci siamo informati, è stato inserito nell'album Eden. Eden, una rinascita. Anche sì, se sì, in realtà, devo dire la verità, c'è un richiamo a microchip emozionale all'interno del testo, che forse sì, prima però, nel 2000, sì, e dovrebbe 90, essere un po' prima. Ma io volevo 97, chiedervi 90. Una cosa, ma di Subsonica, loro stanno facendo adesso canzoni o... No, al momento no. Adesso non sta, sta facendo dei brani, come si chiama... Busta, arrivano i sorgimenti della re... No, ha fatto il disco. Ha fatto il disco. Dei brani come solista. Busta. Ha fatto due album solisti, Busta e Samuel, il cantante. Sì. Allora, Samuel l'ha prodotto, mi sembra, Giovanotti il disco. Almeno gran parte delle canzoni che ha fatto. Tra l'altro, quello di Samuel è molto bello. Sì, bello. Molto bello. Sì, sì, un po' più allegro. Busta è più introspettivo. Sì, anche su certe cose. Ma è anche un bravo. Come dire. Ah, ho visto che il microfono si è tornato dalla parte giusta. Il microfono, sì, continua. Voleva c'è un, parlare la Cristina. C'è un diciamo un viaggio del micro. Oggi c'è Wolf Trips by Mick, mettiamola così. By Mike. E dicevamo Cristina. Sì, certo, io Cristina. Io sono andata a vederli su Sony. Quando? È stato bellissimo. Ma infatti questo brano qua volevo metterlo perché mi ricordavo il live che avevamo fatto. Molto bello, sì, era bello, mi è piaciuto bello un sacco. Dove li avete visti? Siamo andati al Bizzate Valley a sentirli. L'ultimo anno che l'hanno fatto. Ma c'era solo Samuel o c'era un po' più loro? No, c'erano tutti. Ah, su Sonica, no, perché proprio Samuel c'era stato con i Motel Connection. No, c'erano proprio i Subsonica. Ah, ok, io sono andato a vederli un paio ma di volte. Ma un paio di anni fa. Sì, perché l'anno scorso già la Bizzate non si chiamava più così. Vero. Festival. Comunque ecco, è stato bellissimo, la tastiera è fantastica. Ah, beh, Busta, sa un idolo per Domenico. Poi Busta, sì, quando finisce lui praticamente cosa fa? Regala la tastiera. No, via, la mette nelle buste. Vabbè. No, sì, sempre parlando di concerti, io sono fresca di un concerto, ma non so se voi conoscete, cioè a parte sì, Domenico. Sì, conosciamo. Esatto, sono andata a sentire Levante, non so se tu la conosci, Tony. No, non mi fa. Ma Tony, allora, se lei devi... mi parla della reg, del mio pezzo reg, cioè Levante. Guarda che Levante non è reg. Sì, no, ma come, diciamo, allegria. No, allora, e ligure proprio. Che io non sapevo tutte le canzoni, però sono andata lì al concerto e cioè l'ho scoperta, perché il live è proprio diverso dalle canzoni ascoltate dal... Sì, beh, certe canzoni... Sì, sì, era proprio coinvolgente, c'erano ad esempio delle animazioni, poi c'era il... come si chiama? Il violoncello, il... quello più grande, come si chiama? Una piccola... Contrabbasso? Ecco. Una piccola orchestrella, diciamo, mettiamola così. Sì, era bello, no, sì. Per me è sopravvalutata, però vabbè, sono gusti personali. No, è vero che è sopravvalutata, però è brava. Nel senso, sì, effettivamente, non so per quale motivo, ovviamente per moda o non lo so, viene sempre pompata tantissimo, però non è incapace, mettiamola così. Noi dobbiamo mettere anche Cosmo, che Domenico gli chiedo sempre. Ah, è vero, chi è vero. Cosmo, se lo conosci Levante, conosce anche Cosmo. Cosmopolitan, io lo conosco. No, lo conosci anche tu, buono. Cosmo. Che lei lo ascolta, Cosmo, non so tra chi l'altro. Sia. Sì, che lo ascolti. Vai a vedere la tua cronologia di YouTube. Coez. Controlla YouTube. Mamma mia. No, è vero, ha ragione. Coez. Vabbè, Coez, sì, ok. No, non so. Mi sono confuso. È una testa di Coez. A me Coez viene in mente un video. Di cose non cose del gruppo Cose non cose. Che sono dei gruppi abbastanza stupidi. È un video trashissimo, che è il video di Cetriolino che canta Coez. Avete capito? Guardalo, che siamo entrati proprio in pieno, esatto, nella parte del programma, della becerità assoluta. E qui gli ascolti. E io di Cosmo so solo Cosmo e Wanda dei Fantagenitori, cioè dobbiamo dire. Ah, già, è vero. No, chi è Cosmo adesso? È un no, Cosmo sarà simile comunque a quella roba lì. Ah, è sempre il genere di Levante o di Coez, non ho capito. No, beh, un genere, senso che la nuova musica indipendente che sta uscendo fuori adesso, come i dei giornalisti, Coez, sì, sì. Levante, quella musica lì è nuova come l'altro ieri, cioè, sì, proprio nuovissima, cioè una roba vecchissima. E perché non si ascoltava in radio. Bravo, ecco. Bravo. Sono pezzi magari anche 2-3 anni vecchi. È vero, come è vero. Dei giornalisti, cioè penso che sia Radio DJ che abbia pompato come gruppo. No, adesso per carità, Adesso mi piacciono, sì e no, però. Sai cosa? Che sono belle le canzoni, quelle non della radio, non so per dire, di Levante. Se non ascolti quelle che non vengono tanto pompate, sono molto belle. Anche infatti, non è che pompano. Scusate, adesso stanno pompando tanto anche lo stato sociale, eh. Anche loro sono un po' di anni che sono in giro. Sinceramente non li conoscevo io, no, prima nemmeno di... io. Oddio, non è che... vabbè. Domenico è un po' critico. Però eh? Guarda che li stanno pompando veramente una, al massimo. Una canzone. Sì, quella la stanno pompando, vabbè, sì, tantissimo, giusto. Vabbè. Sì, ma mica ha partecipato a Sanremo. Sì, no? Sì, sono arrivati, secondi. Sono arrivati secondi. Sì, forse è una delle poche che stanno pompando. Forse l'unica. È l'unica. E quindi, visto che siamo in piena di classifiche, seconda, lanciamo gli ultimi, diciamo, l'ultima palla, l'ultima mezz'ora di Wolf Trips. Ascoltiamo. Hai visto, guarda, preciso oggi. Ascoltiamo i primi 5 brani della classifica di Wolf Trips, che è la classifica dei brani sempre un po' più... Non ne conoscerei nemmeno uno, perché sono tutti brani nuovi, tutta roba nuova, magari qualcuno come nome. Vabbè, beh, questo qua è The Weeknd, cioè, quando non The sono Weeknd. Qui ti ascolto. Ah, giusto, è vero, è vero, è vero. Non si, magari un'oretta. Che poca stima che ha di te, tuo fratello. Ma io di tutti, anche di me stesso. Allora, il prossimo brano infatti è The Weeknd con Kendrick Lamar, che sono due nomi famosissimi, altisonanti. Sì, sì, sì, ma li ha cercati, li ha cercati, li ha cercati. Dopo metti la pubblicità? Sì, facciamo una pausa. Questo potrebbero dire che è un pezzo pop, perché appunto... Sì, abbiamo... sì, sì. Il brano si chiama Pray for Me, quindi prega per me, prega per me. Andiamo a ascoltarci. Prega. I fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. You won't pray for me.

Vabbè, quindi tu ascolti spesso, no? Quindi cosa? No, dico, cioè, ogni tanto ci ascolti nel programma, sì, no? Ma perché tu ridi? No, no, mi viene in mente che hai preso il posto della Cristina. Sei medesimata nella Cristina. Che adesso ti arrivano delle sberle da dietro. No, mamma. No, quindi dico, quindi conoscerai i brani che ascolti, che passiamo ogni tanto nella classifica di Wolf Trips, no? Sì, sì. Va bene, va bene. Cos'è che vuoi, Tony? Niente, stavo dicendo che... No, no, dimmi che mi interessa sta cosa. No, che quel microfono, uno si cristianizza. Cristinizza. Ma ce la fate tutte e due? Ma sì, ma dai, sì, dai. Sto prendendo un po' in giro visto che non c'eri, sei sempre fuori, allora... Io e la mia tosse siamo tornati. Siete tornati. Vabbè, allora ascolta, già che ti è tornata la voce, annuncia il prossimo brano che deve. Che è il brano. Adesso posizione numero 3. Dai, vai. Posizione numero 3 della classifica di questa settimana. Flume. Okay. Sleepless. Ok. Vabbè, Justice Long Mix Remix lo dico io, dai, va bene. Quello no, lì. Skolnick. Skolnick, remix. È vero, Skolnick, non avevo letto male io. Allora, mi son che confuso. Cavolo, io senza occhiali già non ci vedo una cippa. È la prima volta che le sigarette fanno bene. Tanto qui sorgono minacce di morte. Sì, stasera sì, è così. Serata agguerrita. Vabbè, intanto nessuno ci ha fatto avere notizie del salame, giusto? No, il salame non è arrivato. Salame Milano, il salame felino non è arrivato. Mi spiace. Che miseria. No, Milano non, pensare non fare male. La battuta. Non pensare male. No, Milano non no, male. Non è tanto buono. Mi piace. No, perché ha troppi pallini di grasso. Comunque vedo che la gente ai microfoni si sta moltiplicando. Ci mancherebbe solo Jonathan che dopo lo invitiamo a parlare di qua. Sì. Dai, almeno sì, per salutare. Qua è pieno. Di là sono pieni, là c'è il full full anche immersion. Dopo, anche dopo, dai. No, arrivate, è arrivato. No, scappato proprio, se ne sta andando via. Vabbè, continua. Va bene, mi sa che... Allora, ci mancano, guarda, ci manca un quarto d'ora. Tu hai qualche notizia? Avete qualche notizia magari che è successa questo, a parte quella che avevamo già dato purtroppo, sì, altre notizie che sono successe questa settimana? Sai che nell'ultima parte sempre ci inventiamo qualche ce le inventiamo noi, ce le inventiamo notizie. Noi, sì sì, le notizie fake. No, non so, beh, i 50 anni di Sabina Salerno. Ah, boh, l'abbiamo già detto prima. Vabbè, auguri ancora. È successo minchia di quella cosa dei clandestini. Cioè? Che cosa? Quelli che si sono presentati, hanno vinto il Movimento 5 Stelle. No, ma quella è proprio una cosa. No, niente politica, mamma. Cioè, no, no, politica lasciamo la stare. No, sono andati tutti a prendersi i cosi di clandestinità, il reddito. Il reddito di clandestinità. Cioè, rende, cioè, tu facendo il clandestino rendi. E beh, magari rendi a qualcuno, sì. Sì, purtroppo non affrontiamo il discorso perché no. C'è qualcuno che ci lucra su ste robe. No, a proposito, ieri mi sembra oggi, no, anzi, oggi ho sentito che non sapevo esistono i esistessero. Esistono? Esistessero. Esistono? Esistessero. Esistessero. Vabbè, ragazzi. Vabbè, parliamo su come parlo io. Dai, dai, okay, dai. Okay, questa è la notizia. Come parla il Tony? Dai, su, parlate voi. Parla... No, no, io voglio sapere cosa infatti, esiste. Esprimi il tuo concetto. Che esistono anche gli Oscar per i videogame. Ah sì? Veramente? E il videogame che ha vinto quest'anno è Legend of Zelda. Oh! Il mio videogioco di sempre. Ti piace, cioè, Deborah? Quest'anno. Ci hai giocato? No, però è bellissimo. Cioè, lei... Sì, beh. Lei guarda anche i film che sono presi dai videogiochi. Beh, io questa settimana ho fatto un bel full immersion di film. Visto che ero a casa, morente. E qual è stato il film che quello che hai visto? Si è addormentata prima. Bello che... No, allora, ho visto un film che mi ha fatto un po'... Non mi ha convinto molto. Io avevo, da ragazza, vi ricordate che c'era il libro Melissa P? Sì. È uscito pure il film. Sì. E mi sono vista il film. Mai più. Non lo so. No. Cosa ti aspettavi? Che facessero le stesse cose del libro o... Cioè, non ma so. Ma me l'aspettavo più attinente al libro. Invece è molto più romanzato. Sì, no, sì. Come, non so, il film... Quei film che c'erano... Come si chiama? Corsi. Ti ricordi quei film... Che presi... Corsi? Stefano Corsi. Sì. Jack Frusciante. Tipo film così. No. Già Frusciante è uscito dal gruppo. No, non me lo ricordo, non ho mai visto. Vabbè, è un film molto adolescenziale. Non... Diciamo che è un film che non consigliamo. Sì, così. Beh, poi quando sei adolescente leggi certi libri, cioè, anche ti... Però quando poi sei più grande e rileggi i libri, mai farlo, perché ti rovini tutto quello in cui avevi creduto durante l'adolescenza. Vabbè, io non so cosa hai letto tu. Vabbè, dopo te lo spiego, ah, okay. Dai. Sono facciamo piccolino. Così, allora, lasciamo perdere allora, i libri, lasciamo siamo perdere... Siamo passati troppo profondi sì, siamo... Sì, sì, sì. Lasciamo perdere anche i film, lasciamo lo spazio alla musica. Ecco. Andiamo ad ascoltare Louis Futon con Rewind, che mi sembra un po' un titolo, mettiamolo un po'... Eh? È un po' un titolo di canzone italiana, no? Rewind. Vasco. Vasco. I see a lot of hate. I hear a lot of faking, yeah. But I ain't got no shame, so they ain't gonna say shit. See, we're all the same, just don't know how to say it. We can have it our way, we can make it amazing, yeah. Don't let them under your skin, don't need to take it all in, yeah. Just erase it, get back the basics. Nothing to stress, you know it's all green ahead. So play it again, so play it again. Rewind, take it from the first line. We could ride it all night, staying past the sun. Play it while we're young, with a song in our head always on. Yeah, this is real life, play it while we're young. Jump, take it from the lost one. Close eyes, nose dive, take me to the water. Treat a couple people, think I'm eating off a concert. Some pieces still devour more than towers off a concert. When broken, I ain't changing them still. Fix the label, still be breaking them deals. They got a face in them, I'm busting in my country. Every time in my 20s, I've been housing ever since I see my name on them bills. to tell you, whoo, child, I'm amazing. Look how I turned them hurricanes into a rain dance. Now them refugees is jealous, a bunch of gossip because of me. But you go ahead and tell me where my plane land. I mean, of course it's me, many endorsing me. I penciled in them gentlemen who opened doors for me. So Mr. Mikey press record and seen them chords for me. Like, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. The sun, play it while we're young. With a song in our head always on. Yeah, this is real life. Play it while we're young. Play it while we're da, da. Cos'è successo a voi due stasera? Sì. Cioè, arriviamo alla fine della puntata e tirate fuori questi argomentoni. Fuori, dalla, fuori onda, tra l'altro. No, come stavamo parlando, stavamo colloquiando dei vari libri. Come... Giusto per la tesi che avevo detto prima, che è meglio non rileggere un libro letto in adolescenza. Su certi argomenti che... Vabbè, dai, ci potremmo fare una puntata. Sì. La prossima puntata, a parlare di questa roba dei libri. Devo portare i libri che ho a casa. No, guarda, se allora, se apri là dietro uno scatolone che avevo lasciato tempo fa in radio, non. Sì, ci sono delle cose. Ci sono dietro. Dei libri che, tra l'altro, ho portato ma io. Ma questi sono i nostri. Sì. È casa vostra qui. Come Denon, sentirsi a casa. Con la scatola del mio lettore CD, tra l'altro. Io anche. Non vorrei. Gli altri ospiti della, del programma, che questi due qua, siccome è casa loro, qua dentro. No, no, dico. No, perché sono le telecamere. Non, è che siamo, non è che siamo il Grande Fratello, qua, non lo so io. Cioè. Beh, ma ce la fai, Tony? No, è un divano che sembra quel video. Il divano rosso mi ricorda qualcosa di conosciuto. Sto cercando qualcosa da lanciargli. Cioè, sta, no, allora, quella è la stanza rossa delle 50 sfumature, ma è tutta rossa. No, vai tranquilla che non sto parlando di quella. Diciamo, eri così serio quando eri fuori onda, appena entri in onda inizi a dire minchiata tutto spiano. Vabbè. Ti piacerebbe, Tonia? Cosa? Cioè, adesso mi piace. Sì, mi piace, dai. Va bene, ti do va bene, dai, Tony, ti lascio lanciare il prossimo brano, che è il brano numero uno per questa settimana. Aspetta che faccio la presentazione. Vabbè, dai, non è che mi stiamo facendo la super classifica show, Ok, cioè, number one. Ecco. Dico. Siamo alla fine del programma. No. Siamo alla fine del programma, sì. Manca 7 minuti, Mac. Non ti preoccupare, tu non ti preoccupare. Ah, per le cazzate c'è sempre tempo. Ok. Vai, Tony. Allora, al numero uno... Penso che sia stabile, sì. Come le altre settimane. Qui proprio siamo... Cioè, Post Malone, che è un rapper americano. È un rappettuso. Rappettuso. Qui mettiamo molto roba rappettala. Beh. E il pezzo si chiama I Fall Apart. Dimmi, Cristina. No, avevo... Volevo chiedere una cosa a Domenico. Dimmi. Ma i Patawawa che fine hanno fatto? I Patawawa, guarda, adesso ti farò vedere. Nella classifica sono usciti questa settimana. Non tira più la Patawawa. Che cavoli, mi stavano simpatici. Non è che possiamo tenere i pezzi perché stanno simpatici nella classifica. però anche quello vale. Possiamo quindi fare la classifica me, dei pezzi simpatici. Infatti. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi Post Malone con I Fall Apart Medicine Remix. Remix, a me potrà. She told me that I'm not enough. And she left me with a broken heart. She fooled me twice and it's all my fault. She cut too deep, now she left me scarred. Now there's so many thoughts going through my brain. And now I'm taking these I can't let go. Everybody told me so. Feeling like I sold my soul. Devil in the form of a whore. Devil in the form of a whore. You said it. Vai, vai, perché ridi? Stavamo parlando di puzzette. Ah, sembra argomenti interessanti. Sì, ma immagino che sono io. Te l'ho detto che c'è stato quello. C'è stato un attimo di spruzzo di. Di come si dice? Di saggezza. Diarrea. No, di saggezza. E poi dopo si è ricalati nell'oblio. Con la puzzetta, ecco. Sai, è facile. Siamo arrivati alla fine della puntata. Meno stasera. Male. Vabbè, vabbè, dai, è stata una puntata... Vabbè, ma scusami, chi è che non le fa? Voi donne. Voi donne dite che non le fate. No, io no, io non dico questo, perché sarei la persona più falsa di questo mondo. Ok. Vabbè, oh, Tony, sono cose fisiologiche, dai, tutto sommato ci sta... Finire queste cose. Sai cosa dicevano una volta? Tromba di culo, sanità di corpo. Se non avessi il buco sarei già morto. Potevi dire in latino, magari suonava meglio. Trombus de culus. Era più colta. Eh sì. Adesso invece è incolta. Vabbè. Incolta. I nostri ospiti mi sa che si stanno un po'... Se ne stanno scappando, vabbè. Lo metteranno sul loro blog. Non ascoltate quel programma, non aprite quella radio, mettiamola così. Vero. Beh, ma anche questa è natura, bio natura. Esatto, infatti, sì, sono gas naturali. Beh, diciamo, inquinamento. Infatti, il bioetanolo. Stiamo guardando quello... Con la CO2. Ma le puzzette inquinano? Sì, sì. Quelle delle mucche. Sì, mucche delle mucche, il metano. Metano? Sì. No, ma le nostre puzzette. Non credo che siamo così. Cioè, se tu fai una puzza, sì, se inquina anche quella. Comunque sì, sono dei gas metano, che quindi sì. Sono, come dire, sono senza parole. Senza parole. No, perché calcolo la mia quantità di gas. Cioè, sono... Vabbè, ma calcola che comunque, cioè, tu ne produci tanto quanto un animale, e poi comunque il metano viene riutilizzato in un certo modo, Sì, il mio non sì. lo so come viene no, riutilizzato. Però dico... No, ma per dire, no, ad esempio, ci sono le macchine. Sì, sì. Metano, a puzzette, dire, no? Quindi. Se io faccio le puzzette dentro la macchina va. Sì, dovrebbe andare. Dovrebbe andare. Tagliano tutto il programma qua. Sì, sì, sì, sì. Taglia il gas, diciamo. Guarda, diciamo che siamo arrivati alle 10, quindi direi che ci chiudiamo con i saluti. Chiudiamo con la valvola. Con i nostri saluti puzzettosi di stasera. Vabbè, allora, quindi salutiamo Sara ed Emanuele di Biomaterra. Ciao ragazzi. Ciao, ci vediamo presto. Mi raccomando, andate sul blog. E beh, ricorda il vabbè, no, Biomaterra da, sì, esatto, da Google, sì, dai, va sì, bene. Sì, è vero, basta che cliccate Biomaterra su Google e ci trovate. C'è scritto il sito. Tutto attaccato, però ricordiamo. Esatto, tutto attaccato. Biomaterra, ok, ok. Tutto attaccato. Facebook, Instagram. Tutti i vari social. Everywhere. Poi salutiamo la Cri che stasera si è... Io e la mia tosse. Ok, la tosse, tutto quello che compete. E salutiamo Deborah, salutiamo Jonathan che non... Non hai aspettato saluto, ciao, ciao, ciao. Saluto tutti e ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo. E... per chi ci guarda in webcam... Ah, giusto, giusto, hai ragione. Ciao. E poi salutiamo Deborah e salutiamo Jonathan. Ciao. Jonathan non parla. Salutiamo Tony. Io vado al distributore di gas. Vedo se come... Ma vai a prendere la benzina o no? Quanto mi valutano. Se ti non prendono come la, lavoratore. La Benzino Gosci. È vero, la Benzino No, lui Gosci. È produttore. Ah, ok, ok. Produci Benzino Gosci. O Gosci. Vabbè, ci ascoltiamo, ci sentiamo, ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo perché mi riascolto. Se volete riascoltare il podcast. Cioè, il podcast su Mixcloud o sui vari social di Wolf Trips. E noi ci sentiamo settimana prossima. Ok, ciao. Ciao. Ragazzi. Ciao.